La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:28 primi e 50 secondi. Oscar Giannino, anche oggi in diretta agli studi di Milano. E vi ringrazio naturalmente, come sempre, per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo della versione oscar@24.it. Oggi parliamo di opere pubbliche perché c'è il rapporto Not in My Backyard annuale, cioè il conto delle opere su cui c'è contrasto per la realizzazione nel nostro paese. I numeri li vedremo da poco e rifletteremo su perché questo fenomeno continua a contrastare la vita italiana, cosa può cambiare, se sta cambiando qualcosa in peggio o in meglio. Prima però datemi due minuti perché come stamattina desidero esprimere una considerazione, perché oggi, come sapete, i giornalisti di Radio 24 sono in sciopero insieme a quelli dell'agenzia di informazione Radio Core del gruppo Radio 24. Ieri sono scesi subito dopo l'assemblea degli azionisti del gruppo Sole 24 Ore in sciopero i colleghi del Sole 24 Ore, del giornale stampato e dell'offerta digitale che offre il Sole 24 Ore. E devo dirvi che io sono un collaboratore professionale a tempo esterno, quindi non fa parte di chi ha la mia qualifica, non sono lavoratore subordinato, quindi non mi spetta per l'articolo 40 della legge 300 il diritto di sciopero. Io non sciopero quasi mai, ma questa volta vi devo dire la verità, cari ascoltatori, sono totalmente solidale, comprendo e condivido le ragioni che hanno spinto i colleghi del Sole ieri stampato e oggi di Radio Core e di Radio 24 di proclamare uno sciopero. Naturalmente poi c'è chi lo fa e chi non lo fa, la libertà di sciopero una volta proclamato dai rappresentanti aziendali è sacrosanta, ma devo dirvi il perché mi sembra importante. Mi sembra importante non tanto e non solo per quello che l'editore deciderà finalmente dopo anni di perdite a cui ha assistito, di distruzione di valore a cui ha assistito, e nella speranza che vengano risposte concrete alle tante domande che in primis colleghi validi del Sole 24 Ore nell'analizzare bilanci e seguire vicende societarie hanno avanzato in questi anni e anche in queste ultimissime occasioni societarie all'azienda e a chi ha amministrato il giornale, visto che ci sono rilevanti questioni, numerose e rilevanti, che hanno a che vedere con la trasparenza delle società quotate, con la sana e prudente gestione, con l'adozione, o meglio, con la non adozione di criteri contabili a molti asset, con quello che è avvenuto in questo gruppo fin dalla quotazione e per tirare sul titolo della quotazione fino a oggi negli anni. Sono interrogativi molto rilevanti che hanno un grande impatto sulla credibilità non solo di questo giornale, di questo gruppo editoriale, ma che hanno un grandissimo impatto sulla credibilità dei gruppi dirigenti, dei presidenti di Confindustria in tutti questi anni, di chi ha amministrato il giornale scelto da Confindustria. Io spero che queste domande trovino una soluzione presto. Confido nella indagine aperta dalla Procura di Milano e dalla Consob. Ora, il motivo di questo sciopero non è, per quanto io non lo faccia, non è la difesa solo degli occupati, perché molti di voi oggi ironizzano sui social dicendo: e come? Voi siete sempre scettici, gli scioperi che riguardano i tagli altrui poi se arrivano a voi protestate. No, il motivo è sottolineare che ne fanno e ne facciamo, io mi metto ultimo in questa lista, una questione di trasparenza e credibilità di una società quotata, perché noi vogliamo un mercato nel quale le società quotate, anche le non quotate, vengano condotte con criteri di efficienza e di sana gestione. Radio 24 è inutile, Radio Core è inutile, il Sole ha perso molti soldi per spericolate acquisizioni poi abbattute di valore in maniera del tutto inopinata. Ci sono tante oscurità da chiarire. Io vi dico solo che lo fanno, questo sciopero, anche per i tanti azionisti, retailers, risparmiatori ordinari a cui è stato dato il titolo. Non è stato nella quotazione dato a investitore istituzionale il titolo del Sole 24 Ore, è stato dato a risparmiatori ordinari. Vi leggo solo poche righe di uno di loro, dei tantissimi che ci scrivono, mi hanno scritto anche stamattina. Dice: io alcuni anni fa ho acquistato azioni del Sole a 5,75 euro pensando di fare un acquisto con una società della Confindustria comunque molto importante. Da quel momento in poi non hanno fatto altro che scendere, arrivando a pochi decimi di centesimo. Ho perso praticamente tutto il capitale. Sono un ragioniere, La mia esperienza mi ha fatto capire che la Consob aveva gli occhi foderati oppure ha valutato bilanci gonfiati. Adesso, dato che il problema si è rappresentato, vorrei sapere a chi rivolgermi per fare un'azione, magari in comune con altri azionisti derubati, e pretendere un risarcimento per questo illecito. Sono dunque contento che i giornalisti siano decisi a protestare in vista di una pesante riorganizzazione del gruppo, e non mi pare corretto far pagare, oltre che a noi azionisti, anche a chi non è centrato nulla. Allora, questa non è una questione di solidarietà, è una questione per sottolineare a tutti che io spero, mi auguro davvero, che la vicenda della razionalizzazione, della rimessa in ordine di questo giornale e la chiarezza sul passato, soprattutto, voglia rappresentare un esempio di trasparenza, di quelle virtù del mercato, dell'ordine, dell'efficienza nei conti, che altrimenti noi non siamo credibili, malgrado tutto quello che facciamo nel pretendere dallo Stato, dalle altre aziende, dai paesi esteri nel commercio mondiale, se noi per primi, agli occhi di tutti, perdiamo questa credibilità. Questa è la mia opinione personale, per quello che può valere. E l'ho detta abbracciando i colleghi. Detto tutto questo, andiamo al tema di oggi. Oggi si presenta, inizia alle 18 la presentazione pubblica a Palazzo Wedekind a Roma, per chi fosse interessato, nel centro a Roma, si presenta il rapporto annuale di questa associazione NIMBY, che dal 2004, quindi ormai siamo al decimo rapporto consecutivo, monitorizza il numero, la tipologia, le ragioni per cui centinaia di opere pubbliche infrastrutturali di diverse tipologie, energetiche, di smaltimento rifiuti, stradali, autostradali, ferroviarie, vengono a bloccarsi nel nostro paese per ragioni varie e diverse. NIMBY, perché viene dall'acronimo inglese Not in My Backyard, cioè mi oppongo a che la facciate vicino a casa mia, l'opera pubblica. È un'associazione fondata oltre che da associazioni, da imprese, quindi da tutta gente che si augura che questo ritardo nel nostro paese trovi una soluzione con regole diverse, regole per valutare il costo efficienza delle opere pubbliche, per valutare i costi addizionali per le richieste di oneri accessori, per garantire tempi certi rispetto alle impugnative giudiziali, quindi con fenomeni di ascolto del territorio, ma con tempi certi e che non consentano poi a tutti i soggetti di impugnare successivamente nel tempo e tornare da capo a 12, che si interroga sull'efficienza su tutto questo del nuovo codice degli appalti, quello di cui l'autorità anticorruzione sta emanando le linee guida, e così via. Allora, questa presentazione c'è tra poco, ma noi abbiamo il presidente dell'associazione NIMBY, cioè Alessandro Beulke, che ha accettato di anticiparci ai nostri microfoni alcuni degli elementi più importanti dell'ultimo rapporto, per vedere se le cose vanno meglio, vanno peggio, perché. Quindi grazie di essere con noi ad Alessandro Beulke. Grazie a voi. Allora, iniziamo con alcuni numeri complessivi, poi entriamo nella tipologia delle opere e rispetto ad alcune novità, perché a me ha molto divertito un capitolo in cui vi focalizzate su una regione e dice: oltre al fenomeno NIMBY c'è anche il fenomeno NIMTO, però spiegheremo di che si tratta, quella regione è la Puglia. I numeri delle opere bloccate nel 2015 rispetto all'anno precedente salgono o scendono? Allora, rispetto all'anno precedente scendono leggerissimamente, nel senso che ci sono il 3,5% in meno delle opere contestate, o meglio, non tanto le opere contestate quanto del numero di contestazioni generali. Ne contiamo quest'anno 342 rispetto ai 355 dell'anno scorso. Oddio, non è un dato da salutare con tantissimo entusiasmo, diciamocelo francamente, perché innanzitutto è un dato molto molto piccolo, perché oramai siamo saliti oltre le 300 contestazioni da qualche anno in qua. Pensate che solamente all'apertura, cioè del NIMBY Forum, il primo anno 2004 su 2005, ne eravamo contate solamente 190. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ovviamente ci sono degli elementi che contribuiscono all'aumento delle contestazioni rispetto a qualsivoglia tipologia di impianto, infrastrutture viarie, infrastrutture ferroviarie, impianti per l'energia, per la produzione di energia, impianti per lo smaltimento dei rifiuti, eccetera, eccetera. Quindi oramai, se ci siamo attestati su un numero molto elevato, siamo oltre le 340 casi, ed una questa lieve flessione pensiamo che non sia da salutare con grande enfasi, proprio perché semmai, se ci sarà una flessione più importante nel futuro, sarà perché molte opere non vengono neanche compiute, così come abbiamo già visto negli anni scorsi. Un altro dato importante che ritroviamo quest'anno è il numero di nuove opere contestate nell'anno 2015. è bene segnalare la nostra metodologia. Noi azzeriamo il numero di opere ogni anno. Ovviamente ci sono alcune opere che addirittura vengono contestate dall'origine dei tempi, o perlomeno dall'origine del nostro osservatorio. Di queste complessivo 342, 111 sono le nuove conteggiate nel 2015, quindi 111 nuove opere mai riscontrate prima che sono contestate nell'ultimo anno d'osservazione. Anche questo è molto grave, vuol dire che oggi in Italia ogni volta che c'è notizia di un'opera, di un mutamento di uno status quo, di un'opera infrastrutturale di ogni genere tipo, scatta immediatamente un fenomeno NIMBY. Questo nella stragrande maggioranza dei casi, se non sostanzialmente in tutti. Quali sono le motivazioni? Sono tante le motivazioni che sfociano dal NIMBY al NIMTO. Peraltro noi oramai non parliamo più di NIMBY solamente per indicare la contestazione dei cittadini, il comitatismo che ha un colore politico o meno, a parte il fatto che non c'è un colore politico del NIMBY, ma si sfocia oramai nel NIMTO, e come diceva prima correttamente da studio, NIMTO, che significa Not in My Term of Office, cioè non nel mio mandato, ed è quella sindrome che tocca soprattutto gli amministratori pubblici. Che cosa succede? Allora, la storia che potrei raccontare è la storia simile in ogni caso che riscontriamo, in ogni caso sul quale poi agiamo anche professionalmente, e cioè a dire, un proponente, che sia pubblico, che sia privato, che sia una partnership pubblico-privata, lancia la notizia, anche perché è obbligato per legge a lanciare la notizia attraverso la pubblicazione dei progetti e via discorrendo, e nel territorio immediatamente sale un comitato di protesta, piccolo o grande che sia. Che cosa assistiamo? Assistiamo alla pubblica amministrazione locale, che molto spesso non fa altro che cavalcare questa sindrome NIMBY. Più che la pubblica amministrazione in sé per sé, sono gli amministratori locali, la politica. Ma sì, la politica locale. Noi abbiamo avuto partiti, ma questo va dalla destra alla sinistra, certo, senza escludere a nessuno, che localmente, dove insiste la possibilità o l'allocazione di opere precedentemente fatta da anni eccetera eccetera, poi rispetto al partito nazionale la pensano diversamente e dicono no. Infatti Not My Term of Office è l'esempio che fate per i politici della Puglia, in particolare, con due esempi concreti, no? Sì, assolutamente sì, in Puglia così come in ogni altro territorio italiano, perché purtroppo cavalcare il fenomeno NIMBY, diciamolo, per alcuni politici, insomma, però io fa senso elettorale. A me, che sono per la crescita, e che a un certo punto ho dovuto dire il modello, per esempio, di valutazione costi-benefici del dossier di presentazione versione 2 delle Olimpiadi di Roma non mi convince per niente per le metodologie applicate. Io penso che su una componente noi dobbiamo stare molto attenti. Faccio due esempi. Quando la Brebemi in Lombardia si scopre, una volta realizzata, dopo il vanto di averla fatta con il più ampio concorso di finanza privata e non a spese pubbliche, che la valutazione di coloro che la percorrevano, e quindi del reato di recupero degli investimenti attraverso le tariffe, era completamente sbagliata, quando l'opinione pubblica scopre che a quel punto noi abbiamo le concessioni autostradali secretate nel nostro paese, non avviene in nessun paese al mondo, io la considero una cosa di una gravità assoluta, invoco Del Rio a renderle pubbliche, le concessioni autostradali italiane sono secretate, cioè noi non sappiamo caso per caso con quali meccanismi avviene davvero la remunerazione degli investimenti. Ma siccome hanno capito, col caso Brebemi, gli italiani, i lombardi in particolare, che a quel punto scatta automaticamente il fatto che è lo Stato, cioè il contribuente, che deve sobbarcarsi ciò che i privati hanno sbagliato, la gente dice, beh cacchio, non è che possono scoprirlo dopo e pagare dopo. Primo esempio. Secondo esempio, proprio di due giorni fa, riportato anche sul Sole 24 Ore. Spostiamoci dalla Lombardia, in Veneto, la Pedemontana Veneta. La Pedemontana Veneta, anche qui, è un progetto che risale 19 anni fa all'inizio, poi da metà anni 2000 è entrato in una fase di progettazione e poi è iniziata la realizzazione alcuni anni fa. Allo stato attuale si ferma tutto, e a non credere più per primo al modello con cui è stato fatto il costo-beneficio di quell'opera, sono Cassa Depositi e Prestiti e la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che doveva essere alla testa della missione dei bond per la partnership pubblico-privata, che è il piano di realizzazione finanziaria dell'opera, di finanziamento dell'opera. Il risultato, lavori compiuti fino a questo momento 19%, il 12%. Anche in quel caso i veneti dicono, però ragazzi, dopo tanti anni adesso lo scopriamo che Cassa Depositi e Prestiti e BEI non si fidano più della progettazione. C'è un problema di come in Italia si valuta il costo-beneficio di molte opere, o no, Beulk? Certo. C'è sicuramente questo tema. Poi peraltro noi, ripeto, nel nostro osservatorio questi casi che contiamo poi non andiamo a discernere caso per caso, perché ci sono alcune volte, lo diciamo anche molto chiaramente, in cui il NIMBY in qualche maniera è positivo. Il NIMBY che vuol dire? Non vuol dire, come dicevo prima, l'opposizione. No, pregiudiziale, significa pregiudiziale. Rompersi esatto, la testa su come sono fatti esatto. I progetti e i piani. Esatto, c'è un NIMBY anche molto informato. Poi in Italia purtroppo non abbiamo anzi una normativa stringente sulla presentazione, quindi sulla trasparenza. Mi riferisco al debat public che si sta sono anni che noi battiamo su questo chiodo, cioè il debat public che, è importante. Ecco, traduciamolo per il nostro ascoltatore, è la modalità attraverso cui nel diritto esatto. amministrativo francese si uniscono due grandi finalità: l'ascolto del territorio, tanto dal punto di vista degli amministratori pubblici dei diversi livelli, quanto della società civile, imprese, associazioni del terzo settore e così via, ma garantendo tempi certi, quindi non un diritto di impugnativa che vale fino alla realizzazione iniziata del processo, e costi certi rispetto alla somma di oneri accessori che in Italia invece può avvenire a qualunque livello, dalla progettazione fino all'ultimo giorno della sua realizzazione. Questo debat public è quello che ha garantito l'efficacia, oltre che la democraticità, l'apertura del processo di realizzazione delle opere pubbliche. Da anni in Italia c'è chi dice: ma perché non lo importiamo? Ecco. Esattamente questo è il punto, nel senso che il debat public che cosa rappresenta? Rappresenta soprattutto per l'investitore, e qui possiamo parlare di, c'è un'analisi di AGC Bocconi che dice che sostanzialmente il costo del non fare si aggira intorno ai 40 miliardi di euro l'anno, e adesso non so bene, non sono economista, quindi non so bene se questo dato sia da salutare se sia andato preciso, ma so per certo che ci sono moltissimi progetti bloccati o comunque ritardati per svariare miliardi di euro. Pensiamo solamente a tutta la diatriba sulle infrastrutture petrolifere, quindi sulle attività di non solo di estrazione ma addirittura di ricerca. Ma proprio su questo caso potrei citare quei 49 ricorsi che sono stati rigettati dai vari TAR, ricorsi della Regione Puglia, ricorsi della Regione Calabria e via discorrendo. 49 su 49. Che cosa significa? Significa evidentemente che c'era un ricorso temerario alla giustizia amministrativa. Poi abbiamo visto com'è finita e abbiamo visto soprattutto alcuni operatori, Shell tra tutti, che sono scappati a gambe levate dall'Italia perché non potevano realizzare i propri piani industriali entro un lasso di tempo certo. Perché il debat public è sicuramente importante, perché perlomeno i tempi decisionali li stringe all'interno di un parametro certo di tempistica. Pensate che, cari ascoltatori, BP, British Petroleum, è stato 12 anni aperto per l'ipotesi del rigassificatore in Puglia, poi alla fine ha detto: sentite, ci è costata quasi 100 milioni questa cosa, ma vi salutiamo, ce ne andiamo, tanto per dirne una. Ecco, cioè, non è esattamente, rispetto a un'Italia ufficiale che dice che noi stiamo moltiplicando gli sforzi per attirare gli investimenti, poi di fatto la gente che deve investire o vuole investire, che crede in questo paese, va a vedere in concreto come funziona. Se vede i tempi, la certezza della giustizia amministrativa, del rispetto dei contratti, vicende come l'ILVA e così via, dice: no, scusate, voi intanto che lo dite bene, però ci crederemo quando vedremo che le cose sono cambiate. Uno di questi temi, lo dico per chi ascolta, ed è trattato anche nel rapporto, però oggi non lo trattiamo, riguarda il cambio delle regole in Costituzione rispetto al testo attuale, rispetto al vecchio titolo quinto sulle competenze regioni Stato. Lo sapete che è uno dei punti più energici della riforma costituzionale. Per le grandi reti infrastrutturali, l'energia e i trasporti finisce la competenza concorrente e la conflittualità enorme di questi anni, si torna alla competenza centrale, e c'è inoltre una clausola di supremazia che in nome dell'interesse nazionale i governi, se il Parlamento è d'accordo ovviamente, possono far valere anche in altri settori. Lo lascio sullo sfondo perché oggi non parliamo di referendum, però il rapporto si occupa anche di questo. Adesso strade, torniamo tra un minuto. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Devo una risposta ad alcuni ascoltatori che mi chiedono di tornare su un tema che è già toccato stamattina, attenti a noi due, quello della norma, dell'emendamento al decreto fiscale di cui il governo ha posto la fiducia, si dovrebbe votare entro domani. Nel frattempo va avanti anche il dibattito in un altro ramo del Parlamento sul testo della legge di bilancio. Il governo ha fatto decadere molte richieste di emendamento parlamentare per mancanza di copertura, ma un tema che nel decreto fiscale è apparso attraverso un emendamento che riguarda la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di accertamenti per prelievi sui conti correnti superiori ai 1000 euro al giorno e 5000 euro mensili. Oltre a una certa numerosità di questi prelievi, a quella soglia può scattare l'accertamento. In versione dell'onna della prova, a quel punto sta al contribuente dimostrare che non è un reddito in nero. Questa mattina ho avuto parole molto dure verso questa norma. Il viceministro Zanetti mi ha risposto in diretta su Facebook. Trovate su Facebook la mia controreplica al viceministro Zanetti. Il viceministro Zanetti ha detto: no, ma questa norma c'è dal 73. Verissimo, però peccato che nel 2014 la Corte Costituzionale fosse intervenuta su un giudizio di merito incidentale, proferendo l'illegittimità di quella norma per quello che riguardava i lavoratori autonomi e i professionisti, e intervenendo anche sull'inversione dell'onere della prova, dichiarandola incostituzionale e dichiarando l'incostituzionalità di accertamenti pregressi in base a quella norma. Allora, rispetto a quella norma, che ad Agenzia delle Entrate non è mai piaciuta, ribadisco, arriva questo emendamento che ristabilisce invece questa cosa, non solo per gli autonomi ma con valenza generale. Non è un accertamento automatico, ma se l'Agenzia delle Entrate lo fa, voi avrete l'inversione dell'onere della prova. Ribadisco che è l'ennesima volta che l'Agenzia delle Entrate fa entrare nel nostro ordinamento, in questo caso, una risposta alla Corte Costituzionale. Ai miei occhi resta grave, l'ho spiegato con grande cortesia anche al viceministro Zanetti, che aveva detto che dichiararlo in questi termini era una questione di ignoranza e di malafede. Né ignoranza né malafede, gli ho dettagliato e ricordato ciò che lui sapeva benissimo, che c'era una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 a cui questa norma risponde in questa maniera, e io da liberale la considero una violazione gravissima dei nostri diritti di libertà. Non c'entra niente con la legalità tributaria, per la quale mi batto anch'io. Dire che se io prelevo i miei soldi c'è una presunzione di reddito in nero, mi dispiace, chiunque sia passato attraverso un matrimonio o un regalo amico gli può essere capitato di farlo, e quindi che io poi a quel punto mi debba, giustamente voi direte, non è niente a nascondere, e basta con sta storia del niente da nascondere quando si tratta dei propri soldi sui conti. Chiusa parentesi, ma trovate su Facebook miei e del viceministro Zanetti anche la cortesia con cui ci siamo scambiati, una cortesia vera nel rispetto con cui ci siamo scambiati le nostre opinioni. Io non faccio polemica personale e capisco che in governo di coalizione capitano queste cose, però è una vicenda grave. Vedremo se nel testo poi sarà votato. Torniamo al rapporto NIMBY, con noi il presidente dell'associazione NIMBY, Forum, che presenta tra poco alle 18 a Roma il rapporto annuale. E quali settori vedono i casi aggravarsi e quali no? Cioè, rispetto, diciamo, i grandi settori sono ovviamente rifiuti e l'energia, ma in quali casi l'anno scorso la conflittualità è riemersa più che nell'altro? Ma sicuramente nel comparto energetico, anche perché parliamo di progetti di taglia veramente molto differenziata. Quando prima citavamo quegli svariati miliardi di euro di investimenti mancati o comunque ritardati ogni anno, dobbiamo pensare a grandi progetti quali per esempio un rigassificatore, costo circa 800 milioni, piuttosto che la grande centrale termoelettrica che costa più o meno 800 milioni, parliamo di una turbogas da 400 megawatt o anche 1 miliardo di euro. Però ci sono moltissimi investimenti molto differenti, per esempio piccole centrali a biomasse da pochi megawatt, piuttosto che parchi eolici e fotovoltaici, perché attenzione che il NIMBY tocca qualsiasi tipo di tecnologia, anche le cosiddette fonti rinnovabili. Noi abbiamo, secondo il nostro osservatorio, il 52% o poco oltre il 52% di infrastrutture nel comparto energetico che si scontrano con la casistica NIMBY. Per il resto parliamo soprattutto di rifiuti, e cioè a dire tutti gli impianti per lo smaltimento di rifiuti. Anche qui assistendo a grandissimi paradossi, cioè ci opponiamo rispetto ai termovalorizzatori, per esempio, piuttosto che altri smaltimento dei rifiuti di gestori. Via discorrendo, ma quello che accade è che poi questi rifiuti non vengono smaltiti in Italia, ma vengono presi e portati magari all'estero, dove vengono smaltiti in termovalorizzatori assolutamente identici rispetto a quelli che sono presenti in Italia. Anche su questo faremo un lavoro più accurato anche l'anno prossimo, proprio sullo smaltimento dei rifiuti. Si fa un gran parlare della cosiddetta economia circolare, tra l'altro sono, l'Unione Europea la sottolinea più volte, cioè a dire l'economia circolare rispetto a un prodotto che deve vedere poi un utilizzo anche come fonte, come combustibile e via discorrendo. Cioè, allora, questo fa... Però in Italia è difficile secondo me c'è un grande problema di comunicazione, c'è un capitolo su questo che riguarda le imprese, non solo le imprese ma anche i giornalisti, a dire la verità, su tutti questi temi, perché i social sono un ribollire di osservazioni spesso contrarie, talvolta complottistiche e così via, ma c'è anche ovviamente poi assolutamente del fondamento, quindi la comunicazione diventa un problema fondamentale. Volevo sentire al volo un ascoltatore che è lì che aspetta da qualche minuto, Marco dalla provincia di Siena. Marco, prego. No, dico che anche nella nostra provincia e regione abbiamo avuto molti casi, dico, simili a quelli che voi avete messo in evidenza, soprattutto per centrali a biomasse o altri tipi di problematiche come i rifiuti, dico, ma in particolare dico alcune problematiche, dico, abbiamo vissuto alcune grandi incompiute, per esempio c'è una famosa strada della Siena Grosseto che risulta incompiuta soprattutto la provincia di Siena, non so per quali motivi o per quali, e doveva essere terminata entro il 2015. E dico, quindi questo secondo me, dico, molte volte dipendono da logiche, forse, dico, che ogni piccolo territorio ha avanzato proprie ragioni, dico, per poter tirare la giacca, dico, dalla propria parte, insomma, in alcune singole situazioni, per cercare di completare delle opere così, che possono essere importanti, dico, anche l'infrastruttura di questa. Ma quello che è diventato difficile nostro capire è, nel nostro paese, è condividere davvero le ragioni per cui sono davvero importanti o meno, e quindi domina un po' il no vince anche per questo, quindi grande responsabilità per noi. Grazie a Beocche e a tutti quelli del Nimby Forum che ogni anno fanno questo rapporto comunque molto molto molto utile, e continuate su Radio 24. Vi saluto solo dicendo viva la trasparenza, che spero domini sovrana sui conti e sul futuro di questo grande gruppo editoriale.